I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è la prima puntata del percorso della coordinamenta verso l'8 marzo. Pensiamo di farne quattro su un tema che riteniamo nodale della lotta contro l'oppressione di genere attualmente. E infatti la coordinamenta in questo percorso verso l'8 marzo ha deciso di affrontare un nodo centrale dell'oppressione patriarcale, diciamo in questo momento storico, proprio perché siamo convinte che ogni momento che attraversiamo ha i suoi modi specifici di mettere in atto l'oppressione nei nostri confronti. E il neoliberismo, infatti, ha una modalità precisa e specifica. Altrimenti, se non si affrontano gli snodi, quelli che caratterizzano appunto il momento storico, si rischia di usare categorie di analisi, strumenti di lotta che appartengono a un periodo che non esiste più, magari a una società a cui ancora noi facciamo riferimento, ma che è superata, perché noi stiamo attraversando un passaggio epocale, una trasformazione socio-economica profondissima. E quindi paradossalmente le lotte non solo se usiamo strumenti di analisi e di lotta inadeguati non sono incisive, ma addirittura possono supportare il sistema di potere. Il patriarcato, di fatto il nodo è ripartire dal patriarcato. Perché? Perché il patriarcato è un modello economico, prevede un nucleo, questo nella strutturazione che ne ha dato il capitale, prevede un nucleo produttivo gerarchizzato in cui vengono definiti in maniera precisa i ruoli sessuati per una produttività ottimale, perché questo di fatto è lo scopo, non è che il patriarcato si diverte a distribuire oppressione a destra manca così per gioco. E il ruolo maschile dominante, quello femminile subordinato. Allora, in questa configurazione, che è quella fondante che si è strutturata nel capitalismo, chiaramente a questa strutturazione il neoliberismo ha apportato delle modifiche, perché anche il capitale si modifica e anche il capitale si pone nel suo percorso di autoespansione in modi diversi. Diciamo che le lotte di classe, quelle femministe degli anni 60-70 da un lato e la ridefinizione degli assetti capitalistici dall'altro, hanno portato delle modifiche che hanno nel nostro specifico, nella problematica dell'oppressione delle donne, hanno portato delle modifiche attraverso l'emancipazionismo, perché con l'emancipazionismo le donne hanno conquistato la possibilità del lavoro all'esterno, sono state investite anche del lavoro produttivo, per intenderci, però per questo non sono state sgravate da quello riproduttivo e di cura. Anzi, la scelta neoliberista del capitale, dello smantellamento dello stato sociale, provoca uno sfruttamento doppio, no? Quello che delle donne, praticamente con quella che Silvia Federici ad esempio definisce una nuova accumulazione primaria. Allora, il neoliberismo che cosa fa? Ha la caratteristica di porsi come una società formalmente della tutela dei diritti umani, di quelle delle donne, della democrazia fra virgolette. Si pone quindi come antirazzista, antisessista, tollerante, includente, democratica, no? E praticamente attraverso poi il politicamente corretto, porta avanti tutta una serie di modalità di approccio sociale che dovrebbero essere la migliore modalità possibile. Allora, questo a quanto dice appunto il capitalismo nella sua fase neoliberista. E noi questo percorso verso l'8 marzo l'abbiamo intitolato La maschera bianca. Perché? Perché le costruzioni che riguardano la razza e il sesso si rimandano l'una all'altra. E i meccanismi di oppressione messi in atto sono molto simili, come sono molto simili i percorsi di repressione, di addomesticamento, di coinvolgimento nelle strutture di potere, tanto più in questa fase del capitale. Tant'è vero che abbiamo trovato delle connessioni strettissime tra quello che è l'integrazionismo che si chiede alle migranti, ai migranti, e quello che è l'emancipazionismo che è la caratteristica fondante del rapporto delle donne con la struttura neoliberista in questo momento storico. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. In questo parallelo tra la modalità di porsi del neoliberismo nei confronti dei migranti e delle migranti e la modalità di porsi nei confronti delle donne, abbiamo trovato un supporto molto utile nelle analisi di Colette Guyomène. Colette Guyomène è una femminista materialista francese e che ha fatto da tanto tempo, nel senso addirittura dagli anni 70, degli studi estremamente importanti su il razzismo e il sessismo e sugli stretti legami e la modalità tra razzismo e sessismo. Per cui concordiamo assolutamente con lei quando dice che le razze non esistono, che sono fatti sociali ma non realtà. Di fatto è il razzismo come ideologia che produce la nozione di razza e non la razza che produce il razzismo, no? E le razze come i sessi, essendo costruzioni sociali, sono una forma di ideologia ancorata a una naturalizzazione dei fenomeni sociali. Cioè lei dice che prima di tutto si vengono individuate delle caratteristiche di alcuni gruppi e queste caratteristiche vengono individuate come naturali. E individuandole come naturali, chiaramente, si nascondono quelli che sono invece i percorsi socio-economici che li hanno definiti. E lei parla di marchi, lei parla di marchi perché il marchio è la base della classificazione dei gruppi umani, che pone i gruppi umani in un ordine gerarchico ed è basilare per la formazione dell'ideologia razzista. La prima forma di marchiatura serviva a rendere visibili le relazioni fra i gruppi sociali e, per esempio, possono avere questa funzione determinati vestiti, ma anche marchi indelebili direttamente sul corpo, come i marchi che venivano messi agli schiavi e ai deportati, no? Poi invece nell'Ottocento si passa ad un marchio cosiddetto naturale, cioè che individua le caratteristiche dei gruppi come naturali e che vuole occultare quindi le vere relazioni sociali. Il marchio naturale individua i gruppi, quindi però offusca il legame di fatto di subordinazione. Allora noi abbiamo trovato molto, e anche lei di fatto lega il razzismo e il sessismo, perché l'individuazione di caratteristiche provocano il concetto di differenza, no? Quindi le donne diventano un gruppo per differenza, tant'è vero che il maschio non viene nominato mai, il maschio bianco occidentale non viene nominato mai, perché il maschio bianco occidentale esiste, è di per sé. Le donne vengono nominate in quanto donne perché non sono quello che esiste per assunto dato, e così anche nei confronti della razza. Bianco non viene nominato, gli altri appartengono alla gente di colore. Poi che cosa succede? Poi entra in ballo la legge, il famoso concetto di legge di legalità che tanto si è radicato nella nostra cultura, in particolare in questa fase è diventato uno dei punti fondanti dell'egemonia culturale del sistema. Interviene la legge, che cosa succede? Vi leggiamo direttamente un passo di Colette Guyomin da Razza e Natura, Sistema di Marchi, Idea di Gruppo Sociale e Rapporti Sociali del 1977. Lei dice: l'istituzionalizzazione, la trasformazione della nozione di gruppo naturale in categoria ratificata dallo Stato non è stata il risultato di saperi scientifici, ma del giuridico. La razza diviene una categoria legale effettiva come categoria della natura, categoria originaria non divina e non socio-umana. E questo succede alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti, con le leggi Jim Crow, nel 1935 nella Germania nazista, le leggi di Norimberga, nel 1948 in Sudafrica, leggi dell'apartheid. In tal modo il carattere naturale, tra virgolette, la razza, il sesso, essendo divenuto una categoria legale, interviene nei rapporti sociali come tratto costrittivo e imperativo. Vi leggiamo a conferma del legame tra razzismo e sessismo anche un passo di Etienne Balibar dell'88, che dice: in altri termini, ciò che accade non è che camminano in parallelo un razzismo etnico e un razzismo sessuale o sessismo, ma piuttosto razzismo e sessismo funzionano insieme. In particolare, il razzismo presuppone sempre un sessismo. In effetti, tra uomini e donne si è sviluppata storicamente una simmetria. Adesso non entriamo nei modi e nei termini di questo, ma si è sviluppata una simmetria per cui le donne sono differenti dagli uomini, tra virgolette, mentre gli uomini non sono differenti, gli uomini sono. Ma la differenza sessuale è stigma di un antico rapporto di dominio e di sopraffazione, è l'emblema dell'ideologia naturalizzante dei rapporti sociali fra i sessi. E a questo punto è importante introdurre una nota, perché il razzismo, come il sessismo, non si presentano sempre sotto le stesse vesti, no? Cambiano a seconda di come ritiene utile la società in cui siamo infilate. In questo caso cambia a seconda di come ritiene utile il neoliberismo. Per esempio, leggiamo un altro trafiletto, un altro pezzetto di Colette. E dice: ma mentre l'idea di una barriera somatica rappresenta un tipico, non ambiguo, credo razzista, cioè quello è nero, quello è fatto così, è fatto colà e quindi è altro, c'è una certa ambiguità nel parlare astrattamente di differenze culturali, non curanti delle relazioni attraverso le quali i gruppi coinvolti vengono costituiti. Sotto certi aspetti, questo trend antirazzista moderno rappresenta soltanto una continuazione dell'atteggiamento razzista tradizionale. Quindi quello che noi chiamiamo razzismo non è un fenomeno statico, no? Ma muta nelle espressioni in relazione e in risposta ai cambiamenti storici e culturali, e così è anche per la dominazione sulle donne, muta nelle sue espressioni e manifestazioni, ma non nella sostanza. Allora, infatti, attualmente il nucleo produttivo patriarcale, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, e che è come è stato assunto dal capitalismo, si è modificato, dato che il ruolo femminile ha assunto anche il lavoro all'esterno. Quindi ha anche una qualche indipendenza economica che mette, per esempio, in discussione il ruolo maschile, che di questa attività era il destinatario, no? Nella organizzazione dei ruoli sessuati, il ruolo maschile dominante, quello femminile subordinato. Al ruolo maschile era delegato il rapporto con l'esterno e il cosiddetto lavoro produttivo, e anche l'inserimento, per esempio, della prole nella società. Al femminile era destinato il lavoro di cura e riproduttivo. Adesso è chiaro che ci sono state delle modifiche perché, dato che il ruolo femminile ha assunto anche il lavoro all'esterno, ha in qualche modo messo in discussione il ruolo maschile di guida e di riferimento all'interno della cosiddetta, famiglia tradizionale. E infatti questa configurazione classica della famiglia viene sempre più erosa, viene sempre meno, e il maschio viene privato della sua dimensione, diciamo così, di potere reale, però è stato costruito e ha introiettato a tutto campo la dimensione simbolica, quindi una sottrazione del ruolo guida, una sottrazione del possesso affettivo e del dominio, fra virgolette, nei riguardi della donna, nei riguardi della prole, porta a una reazione violenta che è anche determinata dalla modalità, è incentivata dalla modalità violenta in cui, cioè con cui questa società, perché il neoliberismo spinge gli individui alla soluzione violenta dei rapporti interpersonali, soluzione violenta che non necessariamente poi arriva la soluzione violenta fisica, ma comunque è cominciata sul posto di lavoro con mors tua vita mea nei rapporti lavorativi, ma questo poi diventa metabolismo sociale e si espande alla società tutta. Comunque, il neoliberismo in questo modo, tra l'altro, ottiene un doppio risultato, no? Cioè l'insoddisfazione di una vita che non vale la pena di essere vissuta per le condizioni di miseria in cui viene gettata la maggior parte della gente, fa in modo che venga scaricata dai maschi sulle donne. E in questo c'è anche un altro parallelo con il razzismo, l'uso del razzismo in questa società fa anche in modo che i cittadini cosiddetti legittimi, tra virgolette, scarichino questa insoddisfazione nei riguardo dei migranti, no? Fomentando guerra fra poveri e tutto quello che succede. E allo stesso tempo poi si pone invece contemporaneamente come stato sensibile, quindi sensibile alla violenza su di noi, sensibile alla violenza. Violenza nel sociale, con strutture, associazioni, centri antiviolenza, no? E con la retorica nei confronti dei migranti, dell'inserimento, dell'integrazione, della solidarietà e dei lavori socialmente utili. Per questo, noi abbiamo chiamato questa carrellata, appunto, di cui questa è soltanto la prima puntata, La Maschera Bianca, perché vedremo nella prossima come il migrante, l'altro, per essere accettato, per essere assunto in questa società, deve mettersi la maschera bianca, deve assumere la maschera bianca. E attraverso l'integrazione e quindi attraverso tutta una serie di meccanismi che il potere mette in atto. E così anche con noi dobbiamo assumere la maschera bianca, noi, quella del patriarcato, per essere accettate, assunte, inglobate, usate da questa struttura di potere. Ciao, alla prossima!